Lodo Mondadori confermata la sospensiva. Per ora Fininvest non dovrà risarcire la CIR di De Benedetti. Sono 2 milioni di disoccupati d'Italia, secondo l'Istat, in corso l'incontro tra Scajola e Marchionne sullo stabilimento siciliano di Fiat. L'influenza ha morto un bambino a Lecce, sembra che non avesse patologie pregresse. Maroni favorevole ad un referendum sui minareti, secondo il nostro sondaggio non li vuole oltre il 60% degli italiani. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Dunque, in apertura una notizia che è appena arrivata e che arriva da Milano, dove c'è stata l'udienza per la sospensiva dell'esecutività della sentenza sul lodo Mondadori. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Raffaella Calandra, che quest'udienza l'ha seguita. Raffaella. Sì, buongiorno. Una fideiussione con la garanzia poi di una pronuncia veloce nel merito. La Fininvest è arrivata questa mattina davanti alla seconda Corte Civile d'Appello di Milano con una proposta di accordo temporaneo, diciamo così, per la CIR, a cui a ottobre il giudice Raimondo Mesiano aveva accordato un maxi risarcimento da 750 milioni di euro per il lodo Mondadori, ossia per quella perdita di chance, così scrisse il giudice, subita dal gruppo di De Benedetti per quella sentenza che lunghi processi penali poi definirono frutto della corruzione dei giudici da parte, tra gli altri, dell'avvocato Previti. Oggi si doveva decidere se sospendere o meno l'esecutività della prima sentenza civile prima di ridiscuterla nel merito. Ebbene, con una procedura non frequente, il 22 dicembre le parti si ritroveranno per stabilire i dettagli di questa fideiussione offerta da Fininvest, cioè la garanzia data da una banca o più banche per l'intero importo nel caso in cui, cioè, dovesse essere confermato il risarcimento da 750 milioni per la CIR. La prima udienza poi del processo civile d'appello sarà a febbraio, con l'intenzione e la rassicurazione della Corte che una sentenza definitiva dovrebbe arrivare comunque entro la fine dell'anno. Quindi per ora la Fininvest non deve pagare, quindi la vicenda sarà poi ridiscussa, ma c'è intanto a copertura del maxi risarcimento una fideiussione data dagli istituti bancari. Per ora è tutto. E grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Vi aggiorniamo anche sull'andamento in borsa dei titoli coinvolti. CIR guadagna il 3,64%, Mediaset il 3,26%, Mondadori il 2,40%. E veniamo al quadro della disoccupazione in Italia fornito oggi dall'Istat. La disoccupazione è stata spesso definita nei mesi scorsi come il punto dolente della ripresa. A conferma che il nodo è ancora presente, sono arrivati oggi i dati dell'Istat. A ottobre la disoccupazione, secondo l'istituto, ha segnato un picco dell'8%, in salita costante non solo rispetto al mese precedente, quando era pari al 7-8%, ma anche rispetto all'anno scorso, quando era già al 7%. E per la prima volta dal 2004 il numero dei senza lavoro a ottobre ha sfondato la soglia dei 2 milioni. Ci sono infatti 39.000 disoccupati in più rispetto a settembre, ben 236.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2008. In sofferenza soprattutto i giovani, si sfiora quota 27%, ma questi dati fanno il paio con quelli sull'occupazione che, secondo l'Istituto di Statistica, regge l'impatto della crisi economica grazie all'uso delle misure di sostegno come gli ammortizzatori sociali. A ottobre, secondo l'Istat, il numero degli occupati infatti è rimasto invariato rispetto a settembre, anche se nel confronto con l'anno scorso si sono persi 284.000 posti. Un andamento stabile da luglio, dopo mesi di progressiva discesa con la cassa integrazione che, secondo l'Istat, ha frenato il calo degli occupati. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore. E questa mattina a Palazzo Chigi si è parlato anche di donne lavoratrici. 40 milioni di euro la cifra stanziata dal Ministero delle Pari Opportunità. I fondi verranno distribuiti alle regioni che li destineranno ai progetti migliori. Mara Carfagna ha presentato nel dettaglio il pacchetto di misure oggi insieme al Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi. Sentiamo la titolare delle Pari Opportunità. 10 milioni per le taghe smutter, 4 milioni per la realizzazione di albi ed elenchi per badanti o babysitter, 12 milioni di euro per finanziare voucher per l'acquisto di servizi di cura, 6 milioni di euro per le cooperative che operano in contesti svantaggiati a favore della conciliazione, 4 milioni di euro per il telelavoro e 4 milioni di euro per i percorsi formativi di aggiornamento per il rientro nel mercato del lavoro dopo un periodo di esclusione, insomma di congedo parentale. E ora una questione che molto ha a che fare con la situazione occupazionale in Italia. Si discute della possibile chiusura dello stabilimento di Termini Imerese della Fiat in Sicilia. Oggi un incontro importante tra il ministro delle attività produttive Claudio Scajola e l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Lo sta seguendo per noi Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il piano industriale di Fiat, ma soprattutto il futuro di Termini Imerese, nell'incontro ancora in corso qui in Via Veneto al Ministero per lo Sviluppo Economico, intorno allo stesso tavolo il ministro Scajola e l'amministratore delegato dell'Ingotto Marchionne. Le posizioni sono ben note. Secondo i vertici Fiat, gli stabilimenti in Italia sono troppi, in particolare quello palermitano non avrebbe più una compatibilità strategica nel piano industriale auto della casa torinese, che garantirebbe comunque la riconversione di Termini Imerese. Diversa l'idea del governo e dei sindacati. In Italia si producono poche automobili, si potrebbe per questo far rientrare nel paese alcune linee produttive attualmente delocalizzate, e comunque è l'idea di Scajola, la strada dovrebbe essere quella di investire nell'innovazione dei prodotti dando maggiore spazio agli stabilimenti italiani. La partita si gioca poi anche sull'entità degli aiuti al settore che il governo potrà mettere sul tavolo, a partire dalla presenza o meno in finanziaria di nuovi incentivi. Il 21 dicembre comunque il governo incontrerà tutte le parti sociali coinvolte nel futuro della Fiat. E da Roma è tutto, linea allo studio. Partita ancora aperta dunque, grazie a Vincenzo Miglietta. Ora parliamo di politica, o meglio di politica estera. Grandi polemiche hanno suscitato le lodi del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ieri in visita a Minsk al presidente bielorusso Lukashenko. Tanti auguri a lei e al suo governo, ha detto Berlusconi, e alla sua gente che so che la ama. Questo è dimostrato da tutti i risultati delle elezioni che sono sotto gli occhi di tutti, che noi conosciamo e apprezziamo. Attacchi dall'opposizione perché Lukashenko è considerato nei fatti un dittatore. Ma chi è il presidente bielorusso? Il ritratto. In Bielorussia lo chiamano Batka, padre. Lui vuole essere un uomo del popolo. Ma la definizione che Lukashenko sta cercando di scrollarsi di dosso è quella di ultimo dittatore d'Europa. Così lo vedono Stati Uniti e Unione Europea, anche se nell'ultimo anno i rapporti hanno iniziato molto lentamente a migliorare. In grande difficoltà a causa della crisi economica, il presidente bielorusso ha cominciato a destreggiarsi tra europei e russi, cercando di ottenere crediti e investimenti, sconti sul gas che riceve da Mosca. Ma la Russia non vede di buon occhio le avanze di Lukashenko all'Occidente, e anche il disgelo con l'Europa non è facile. Lukashenko dà l'impressione di non voler dare molto in cambio. Sul piano economico un giorno disse di non amare la parola riforma, lui che ai tempi dell'URSS era direttore di un kolkhoz e che dal 1994 presiede su un'economia di comando di stile sovietico. Del resto nel 91 Lukashenko fu l'unico deputato bielorusso a votare contro lo scioglimento dell'URSS. Rispondendo a chi lo accusa per le elezioni truccate, lo stile autoritario, il soffocamento dell'opposizione, Lukashenko ha risposto in questi giorni facendo approvare un allentamento della legge elettorale. Banco di prova saranno le presidenziali del 2011, alle quali Lukashenko, naturalmente, si ripresenterà. Antonella Scott, GR24, Sole 24 Ore. E oggi invece il Presidente del Consiglio incontra tutt'altro personaggio, il nuovo Presidente del Consiglio d'Europa, accade a Milano, sta seguendo l'evento per noi Sergio Nava. Sergio. Buongiorno dalla prefettura di Milano, dove è atteso per i prossimi minuti l'arrivo di Herman Van Rompuy, che è il primo presidente europeo. Oggi ufficialmente la sua nomina è stata approvata dal Consiglio Giustizia a Bruxelles, quindi appuntamento importante perché proprio oggi lui si insedia. Van Rompuy, il belga, arriva dalla Slovenia, dove ha incontrato il premier Borut Pahor, arriverà tra poco, quindi qui a Milano c'è già il picchetto d'onore in prefettura ad attenderlo. Da qualche minuto è già arrivato invece il premier Silvio Berlusconi, e non è ancora chiaro di cosa parleranno. Probabilmente ci sarà, come dire, una presentazione tra i due, e al termine della quale ci sarà anche una conferenza stampa. Non è chiaro ancora se ci saranno domande o meno da parte dei giornalisti, o ci sarà solamente una dichiarazione alla stampa da parte di Berlusconi e Van Rompuy. Da Milano è tutto. Grazie Sergio Nava. Anche d'Europa ha parlato il ministro degli esteri Franco Frattini questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Ci colleghiamo in diretta con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì. Simone, buongiorno. Davanti ai rappresentanti della stampa straniera che lavorano in Italia, Frattini ha tracciato questa mattina un bilancio della politica estera italiana nel corso del 2009. Naturalmente il responsabile della Farnesina ha sottolineato l'impegno dell'Italia come presidente di turno del G8 e ha definito l'accordo sul clima che è stato raggiunto quest'estate all'Aquila una buona base di partenza in vista del prossimo vertice di Copenaghen sul clima, per il quale Frattini auspica che si arrivi ad una soluzione politicamente vincolante, altrimenti sarebbe un insuccesso, ha detto il ministro, che parlando di questioni di attualità non ha voluto fornire ulteriori particolari sull'arrivo di un terzo detenuto dal carcere di Guantanamo, mentre ha confermato che il nostro paese ha dato agli Stati Uniti una disponibilità di principio ad accogliere altri detenuti di Guantanamo, una questione, ha detto, sulla quale è aperta un confronto con le autorità statunitensi. Frattini ha parlato anche di questioni italiane e in particolare della proposta della Lega di inserire la croce nella bandiera italiana. Ci sono state polemiche in questi giorni, è una proposta suggestiva, ma la bandiera italiana è bella così, senza croci, che invece vorrei vedere accanto al tricolore nelle nostre scuole, ha detto il ministro, che sta ancora rispondendo alle domande dei giornalisti stranieri. Per ora da Roma direi che è tutto. Simone, a te la linea. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo adesso a Napoli e in Campania. Dopo Roma e il Lazio è stata la volta appunto di Napoli e della Campania per lo switch off, ossia il passaggio al digitale terrestre. Sentiamo come sta andando. È iniziata come previsto la seconda fase del passaggio alla televisione digitale terrestre in Campania, il cosiddetto switch off, ovvero lo spegnimento definitivo di tutte le trasmissioni televisive analogiche. L'accensione di quelle digitali oggi è partito a Napoli provincia, Caserta e provincia. Seguiranno il 3 e 4 dicembre Salerno e parte della provincia, il 9 e 10 dicembre Avellino e provincia, comuni della Valle dell'Irno, l'11 dicembre Benevento e provincia, 14 dicembre i comuni del Vallo di Diano e infine il 15 dicembre i comuni del Cilento. Centinaia le telefonate al numero verde messo a disposizione dal Ministero della Regione Campania, ma per un primo bilancio complessivo bisognerà attendere questa sera, quando la maggior parte dei televisori saranno in funzione. Non mancano comunque le lamentele dei cittadini. Per adesso funziona abbastanza bene, anche se i canali sono molto, cioè primo, secondo, terzo e si ferma qua. Poi per trovare i Mediaset bisogna andare tutto in un'altra parte, un po' complicato adesso la situazione. Nella stanza, nella cucina si vede tutta, ma però Mediaset non si vede proprio. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. In chiusura di questa prima parte parliamo di teatro. Fino ad 80 anni fa Agrigento si chiamava Girgenti e Girgenti, amore mio, si intitola lo spettacolo che debutta questa sera al Teatro Manzoni di Milano, One Man Show di un agrigentino doc. Ricordare e raccontare le radici. Quelle di Gianfranco Iannuzzo sono ad Agrigento e lui dichiara il suo amore per la sua terra in Girgenti, amore mio. Ma è tutto sommato l'amore per l'Italia, perché ognuno può ritrovare nello spettacolo la città in cui è nato. Sono cresciuto con questo ricordo dell'affetto che i miei genitori hanno per questa loro città. E accanto a questi ricordi un po' teneri, che ci inteneriscono tutti per la nostra città d'origine, ci sono i ricordi quelli comici, divertenti, gli scherzi che facevo ai professori, ai compagni di scuola, lo struscio nel corso principale della città. Girgenti, amore mio, diventa poi Trieste, amore mio, Udine, amore mio, Milano, amore mio, a maggior ragione perché è una città che io amo moltissimo. C'è il culto delle radici. Da dove vieni? Poi dove mi mandano non lo so, ma da dove vengo lo so. Si parla quindi di Sicilia in giorni in cui l'immagine dell'isola al cinema e in TV provoca polemiche. Ci sono capolavori assoluti come Gomorra, intendiamoci, però se esportiamo solo l'immagine di un'Italia ferita soltanto dalle associazioni criminali come Camorra, Mafia, 'Ndrangheta, è chiaro che non si va avanti. Cerchiamo di fare anche qualcosa di positivo, anche se quelli sono lo specchio dei tempi. Quindi le cose, come sempre, quando parlano i politici a questo livello, vengono strumentalizzate. Come c'era qualcosa di buono nella polemica stupida che si è fatta sui leghisti che volevano l'uso dei dialetti obbligatorio come insegnamento. Non è sbagliatissimo, perché quello significa tramandare una tradizione. Poi è chiaro che se ne fa un uso strumentale politico si rovina tutto sempre. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:18 minuti 49 secondi nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della conferma della sospensiva del pagamento da parte di Fininvest del risarcimento alla CIR di De Benedetti, abbiamo parlato di disoccupazione e abbiamo parlato dell'incontro tra Sergio Marchionne e Claudio Scaiola sul futuro dello stabilimento dei Termini Imerese. Adesso ci occupiamo di influenza. perché c'è ancora una vittima dell'influenza AH1N1, un bambino di 2 anni morto all'ospedale Fazzi di Lecce, dove era ricoverato in condizioni gravissime da sabato scorso. Da quanto si è appreso, il bimbo non era affetto da altre patologie, aveva manifestato i primi sintomi la sera di venerdì scorso. Adriana Fracchia ha intervistato il presidente della Società Italiana di Pediatria, Alberto Ugazio, che fa anche un punto della situazione. Prima di tutto si tratta di stabilirlo, adesso su questo naturalmente è un virus A, ma non sappiamo ancora se sia stato H1N1, ma non è facile pronunciarsi, sentiamo il nostro ministero che cosa dirà alla fine dopo aver raccolto tutti i dati. Ma se così fosse non sarebbe certo una novità, e purtroppo tutti gli anni muoiono bambini per complicanze dell'influenza stagionale senza fattori di rischio, sono naturalmente un numero molto basso, ma anche nell'influenza H1N1 il numero non è basso, è bassissimo. E comunque l'arma più efficace continua a rimanere il vaccino attualmente in commercio. Assolutamente, è l'unica arma di cui disponiamo, quindi non è solo la più efficace, ma è l'unica sostanzialmente. Sembra però di capire che questa campagna vaccinale non abbia avuto un grande successo. Abbiamo i dati del Ministero, sono ahimè sconfortanti, siamo credo sui 350.000 dosi di vaccino utilizzato su più di 4 milioni distribuite, quindi è stato una sorta di debacle. Quindi il suo invito qual è? A vaccinare, assolutamente. Tutti coloro che possono usufruire del vaccino si vaccinino. E ora parliamo di criminalità organizzata, perché c'è stata una grande operazione oggi in Puglia. Una ragnatela enorme di interessi, un verminaio che ha portato all'arresto di 83 persone, 53 in carcere, 30 domiciliari, scoperto dalla DDA di Bari, impressionante per ampiezza e profondità, con complicità diffuse anche nella politica. Secondo l'accusa, il clan malavitoso di Savino Parisi era infatti sul punto anche di completare un progetto di realizzazione di un centro integrato universitario di eccellenza per 3.500 studenti di tutta Italia e attrezzature di avanguardia. Le concessioni edilizie c'erano già, ottenute dal comune di Valenzano con la complicità di un ex vice sindaco e di un assessore comunale. Dopo l'università gli affari riguardavano anche la Sport & More, ditta di abbigliamento sportivo leader a livello internazionale, una sorta di lavanderia del denaro sporco, di cui Parisi aveva le quote per 3 milioni di euro, pure sequestrate dalla finanza insieme a denaro, beni immobili, scuderie, cavalli, auto per complessivi 220 milioni di euro. Anche una società londinese di bookmaker dedicata alle scommesse clandestine online su eventi sportivi. E poi i colletti bianchi, i professionisti che davano consulenza al clan e i direttori di banca, tutti a ripulire il denaro sporco del clan di Parisi e dell'altro boss barese Antonio Di Cosole e i loro gregari. Vincenzo Rutigliano, GR24, in sole 24 ore, Bari. E un'altra operazione contro la criminalità organizzata. Carabinieri e polizia hanno arrestato all'alba 11 presunti affiliati alla famiglia mafiosa di Bagheria, fedelissimi fiancheggiatori del boss ormai in carcere Bernardo Provenzano. Il personaggio di maggiore spicco è Simone Castello, 60 anni, arrestato in Spagna, vicino a Madrid. Sarebbe stato questo gruppo ad aver garantito per anni la latitanza appunto di Provenzano. Qualcuno ha proposto di fare un referendum anche in Italia. Io non ho obiezioni. Sono parole del ministro dell'interno Roberto Maroni durante un incontro con il presidente della provincia di Varese, Dario Galli, riguardo alla proposta avanzata dalla Lega Nord di un referendum sui minaretti delle moschee sul modello di quello che si è tenuto in Svizzera. A questo era dedicato il nostro sondaggio. La decisione della Svizzera di dire no alla costruzione di minareti preoccupa non poco l'Unione Europea, mentre in Italia è appoggiata dalla Lega e anche dai nostri ascoltatori. Nel sondaggio di oggi vi chiedevamo se l'Italia non debba prendere a modello il no elvetico. Ebbene, il 66% di voi ritiene di sì. Chi ha votato contro il veto ai minareti è il senatore del PD Claudio Micheloni, svizzero, uno dei nostri rappresentanti eletti all'estero. I problemi più grossi non sono in Svizzera, sono in Europa su questi temi. La mia preoccupazione per la Svizzera è che questo cambia il clima. I veri problemi li abbiamo qui quando si utilizza il migrante come un oggetto politico e non lo si considera un soggetto politico. È tutto qui. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. E nel dibattito due punti meritano di essere evidenziati: il sì al referendum non lede il diritto di preghiera e poi quanto contano i simboli nelle religioni. Sentiamo. Una decisione che non aiuta certo l'integrazione, ma che di fatto non ostacola la libertà di culto e non lede il diritto di preghiera. Messi da parte simboli e segni, è sul terreno del pragmatismo che la battaglia del cielo in Svizzera trova campo neutro. Anche i cattolici in terra d'Islam non esibiscono i campanili, viene osservato, è pericoloso, si inizia sempre dai simboli, viene replicato. È una tendenza preoccupante quella di giocare il tema della libertà religiosa sui simboli e non sulle realtà, ci dice Alberto Melloni, titolare della cattedra UNESCO per il pluralismo religioso e la pace. Diventa questione di libertà religiosa il crocifisso nell'aula, il minaretto nel paesaggio, o il velo o cose di questo genere. Se il diritto si infila in questo cunicolo stretto dei simboli non ne verrà più indietro. È un richiamo alla sostanza anche quello che arriva da un grande architetto come Vittorio Gregotti, che critica la decisione svizzera come inutile e dannosa. Ormai i simboli religiosi nelle città, ci dice, contano ben poco. All'interno di un panorama come quello svizzero non credo che 4 minareti possano cambiare qualche cosa. Che questo turbi l'equilibrio complessivo di un fatto urbano mi sembra molto difficile, insomma. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. All'estero ora, con le nuove tensioni tra Iran ed Inghilterra dovute a 5 velisti. Sono esperti nel salpare i mari più pericolosi, ma questa volta lo yacht del Team Pindar, con a bordo i 5 giovanissimi velisti britannici, si è ritrovato in acque iraniane. Hanno avuto problemi all'elica mentre si trovavano a 60 miglia da Dubai e a 20 miglia dalle acque iraniane. Spiega uno degli organizzatori della regata alla quale si stavano recando a Dubai. 2 anni fa altri 15 marinai britannici furono catturati e tenuti prigionieri dal governo di Teheran per 15 giorni e dopo un delicato braccio di ferro con Downing Street furono rilasciati con una umiliante parata davanti al presidente Ahmadinejad. Quest'ultimo incidente è avvenuto lo scorso 25 novembre, ma il governo britannico lo avrebbe tenuto segreto fino ad oggi per non surriscaldare le negoziazioni. Si tratta di 5 civili, sono velisti e sono finite in acque iraniane inavvertitamente. Non c'è scontro con Teheran, ha ribadito il ministro degli esteri, David Miliband, assicurando che i 5 stanno bene. Ma dal governo iraniano, che ha aperto un'inchiesta, oggi la minaccia. Se verrà fuori che i velisti avevano cattive intenzioni, prenderemo misure severe. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. In chiusura il calcio, con la vittoria di Leo Messi nella classifica del Pallone d'Oro, l'argentino del Barcellona ha staccato tutti i rivali, da Cristiano Ronaldo agli spagnoli Xavi e Iniesta. Per il calcio latino un vero e proprio trionfo. Una pulce in cima al mondo. Per Lionel Messi, campione che non arriva al 1,70 m, nato a Rosario ma catalano d'adozione, non è stata una vittoria ma un plebiscito con 473 voti sui 480 possibili. Un pallone d'oro annunciato dopo un anno magico in cui Messi ha guidato con classe e fantasia il Barcellona del triplete, campionato Coppa e Champions League. Cosa ha Messi più degli altri? Lo abbiamo chiesto a un altro pallone d'oro, Luis Suarez. Questa imprevedibilità che c'ha, cioè questa velocità, questi cambi di ritmo, questa tecnica in velocità che lo fa quando sta bene, irresistibile in molti momenti della partita. Per il calcio latino un trionfo, dietro Messi, il portoghese Ronaldo e 2 spagnoli, Xavi e Iniesta. Perché il calcio latino piace così tanto? Ancora Suarez. Sono giocatori normalmente più spettacolari che non quelli degli altri paesi. Con la stessa tecnica il latino offre qualche cosa di più al pubblico, lo fa essere più spettacolare e poi in definitiva quando ci sono questi tipi di trofei e sono candidati di più perché, ripeto, sono più spettacolari. Ora Messi è favoritissimo anche per il FIFA World Player. In Sudafrica la stella sarà lui, l'obiettivo regalare all'Argentina un nuovo titolo mondiale, 24 anni dopo Maradona. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 13.28 minuti termina questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Carmelo Lauricella. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.